Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buonasera e ben ritrovati a Radio Doc. Vi proponiamo un radiodocumentario dedicato al rischio di conflitto atomico durante i difficili anni della Guerra Fredda. Stati Uniti ed Unione Sovietica sono due superpotenze che si guardano con sospetto, pronte a far scoppiare una nuova guerra mondiale in risposta al minimo segnale di crisi. Il Bollettino degli Scienziati è una rivista americana. Sulla sua copertina è raffigurato un orologio speciale. La distanza che separa la lancetta dei minuti dalla mezzanotte misura quanto l'umanità si avvicina ad un conflitto atomico. Più volte durante la nostra storia, l'orologio dell'Apocalisse è stato vicinissimo allo scoccare della mezzanotte. Vi segnaliamo che la versione integrale del radiodocumentario che state per ascoltare andrà in onda su History Channel il 20 aprile a 12:30. L'orologio ha iniziato a battere il tempo all'epoca della Guerra Fredda, dal giorno dell'esplosione della prima bomba atomica sovietica nel 1949, fino alla minaccia nucleare odierna. Questo simbolo della minaccia nucleare misura quanto l'umanità sia pericolosamente vicina all'Armageddon. Il mondo finirà allo scoccare della mezzanotte. Rimangono solo pochi minuti sull'orologio dell'Apocalisse. 27 febbraio 2002. Durante una conferenza stampa a Chicago, George Lopez, capo del consiglio di amministrazione di una rivista chiamata Il Bollettino degli Scienziati Atomici, pronuncia un avvertimento. Gli attacchi dell'11 settembre e l'invio per posta di spore mortali d'antrace hanno portato il terrorismo a un livello di gravità senza precedenti e avrebbero dovuto costituire un campanello d'allarme. Lo spostamento delle lancette dell'orologio indica la nostra preoccupazione per una comunità internazionale che reagisce in modo inadeguato senza dare il giusto peso agli eventi. Il tempo, ammonisce Lopez, sta scadendo. Per sottolineare la pericolosità della situazione, il premio Nobel per la fisica Leon Lederman sposta la lancetta a soli 7 minuti dalla mezzanotte su un cronometro assurdo a simbolo della minaccia nucleare, l'orologio dell'Apocalisse, segnalando così la gravità del pericolo che il mondo si trova ad affrontare. Nathalie Goldring, presidente del Bollettino degli Scienziati. Quando la lancetta scende sotto i 10 minuti, significa che la situazione è seriamente preoccupante. Prendiamo in considerazione sia gli eventi appena accaduti, sia ciò che riteniamo possa accadere in futuro. Dal 1947, la lancetta dell'orologio dell'Apocalisse si è spostata in avanti o indietro per 17 volte, seguendo le maggiori o minori probabilità di una guerra nucleare. Nell'agosto del 1945, gli Stati Uniti sganciano la loro prima bomba atomica sul Giappone, segnando la fine del conflitto. L'enorme potenza dell'ordigno e la morte di 100.000 persone a Hiroshima e Nagasaki per effetto del fungo atomico scuotono profondamente una parte della comunità scientifica. In particolare, gli scienziati del progetto Manhattan, che hanno creato la bomba atomica. Mike Moore, redattore del Bollettino degli Scienziati. Temevano di aver liberato un mostro che non poteva più essere controllato e decisero di fare del loro meglio per imbrigliarlo di nuovo. Subito dopo la guerra, un gruppo di chimici e fisici che facevano parte del progetto Manhattan cominciano a incontrarsi a Chicago. Fra loro ci sono John A. Simpson, inventore di un rilevatore di plutonio, Harold C. Urey, premio Nobel per la chimica nel 1943, Alexander Langsdorff, inventore della camera per la rilevazione dei raggi cosmici, e Eugene Rabinovich, coautore di un documento del giugno 1945 con cui si esorta il Ministero della Guerra a non usare l'atomica contro il Giappone. Si attribuiscono il nome di Scienziati Atomici di Chicago. Il loro scopo è aprire gli occhi alla gente comune e ai politici circa il significato dell'energia nucleare. Iniziano così a pubblicare un notiziario, il Bollettino degli Scienziati Atomici di Chicago, nel dicembre del 1945. Stephen Schwartz, editore del Bollettino. Il Bollettino nasceva dal desiderio di impedire che le armi nucleari fossero nuovamente impiegate in futuro e di far sì che l'umanità imparasse a usare l'energia atomica per fini benefici. Nei primi tempi, il Bollettino è un giornale in ciclostile di 6 pagine. Nel 1947, aumentando la tiratura, il notiziario cambia formato e diventa una rivista vera e propria. Il comitato editoriale chiese a Martil di creare il progetto grafico della copertina. Martil era un artista locale ed era la moglie di Alexander Lansdorf, uno dei fondatori del bollettino. Uno dei fondatori del bollettino, Al Goldsmith, sapeva che ero un artista. Non mi diede istruzioni, mi disse solo che non doveva costare troppo. I soldi non erano mai abbastanza. Allora buttai giù alcune idee e ci ragionai sopra. Tutti gli scienziati sembravano avvertire una grande urgenza nello spiegare ciò che era accaduto con la bomba. E questa esigenza, così profondamente sentita, mi suggerì l'idea dell'orologio. L'idea di Martil è di disegnare ogni settimana un orologio su uno sfondo di colore diverso. Nel giugno del 1947 il primo orologio fa la sua comparsa sulla copertina. Rappresenta l'ultimo quadrante di un cronografo con la lancetta dei minuti vicino alla mezzanotte. Il messaggio è chiaro. La fine dei tempi si sta avvicinando. Se per Martil l'orologio è un mezzo per comunicare psicologicamente la sensazione del pericolo imminente, il fatto di collocare la lancetta a soli 7 minuti dalla mezzanotte è un espediente puramente estetico. Scelsi 7 minuti a mezzanotte perché mi sembrava il formato giusto per la pagina. Era l'immagine corretta, lasciava spazio per il testo e a occhio mi piaceva. Il mese successivo, un saggio di Eugene Rabinovich spiega ai lettori il simbolismo dell'orologio del giudizio, come lo definisce allora. L'orologio rappresenta lo stato d'animo di coloro che conoscono bene lo sviluppo del nucleare e non si possono permettere di dimenticare che le loro vite, quelle dei loro figli e la sopravvivenza dell'intera civiltà umana saranno appese a un filo finché lo spettro della guerra atomica non sarà esorcizzato. Nell'ottobre del 1949 il presidente Henry Truman fa un annuncio che conferisce un nuovo significato all'orologio dell'Apocalisse. We have been confronted with a new... Gli Stati Uniti, dice il presidente, hanno le prove di un'esplosione atomica avvenuta nell'Unione Sovietica. Ora i curatori del bollettino sanno che la prevista corsa al nucleare fra l'Est e l'Ovest è di fatto in corso. Gli scienziati sostennero che se era possibile costruire questo tipo di ordigni, era solo questione di tempo, prima che venissero fabbricati dalle nazioni che avevano accesso alla tecnologia e ai materiali necessari. In risposta alla bomba atomica sovietica, Rabinovich scrive nell'edizione dell'ottobre 1949: non stiamo dicendo agli americani che l'apocalisse è vicina e che devono aspettarsi di subire un attacco nucleare fra un mese o un anno, ma crediamo che ci siano buone ragioni per sentirsi allarmati e per prepararsi a decisioni difficili. Per sottolineare la gravità della situazione, Rabinovich sposta le lancette dell'orologio sulla copertina del bollettino a 3 minuti a mezzanotte. L'orologio acquista un nuovo e imprevisto significato per la rivista. Ma il simbolismo dell'orologio non cattura l'attenzione del grande pubblico fino all'esplosione di una nuova e più potente arma di distruzione di massa. La detonazione dell'ordigno atomico sovietico nel 1949 riaccende negli Stati Uniti un dibattito rimasto sopito dai tempi del progetto Manhattan. Gli Stati Uniti devono costruire una superbomba. Una bomba all'idrogeno più potente del più grande ordigno atomico esistente. Questo tipo di arma è di un ordine di grandezza del tutto diverso. Le bombe atomiche possono distruggere intere cittadine o alcuni quartieri di una metropoli, mentre le bombe a idrogeno possono distruggere intere nazioni. Non c'è limite alla potenza di bombe simili. Il 31 ottobre 1952, gli Stati Uniti fanno esplodere la prima superbomba. Un ordigno termonucleare con un nome di persona. Mike, ma di fatto un terribile strumento di distruzione con una carica 1000 volte superiore a quella della bomba di Hiroshima. Il sito del test atomico, l'atollo Elugelab, nelle isole Marshall, scompare lasciando un cratere profondo quasi 50 metri e largo quasi 2 chilometri. 9 mesi dopo, nell'agosto 1953, i russi fanno brillare il loro ordigno termonucleare, poco meno potente di quello americano. Quando nel settembre dello stesso anno si viene a sapere del test atomico russo, la copertina del bollettino viene ritoccata all'ultimo momento. Eugen Rabinovich decide di spostare di nuovo le lancette dell'orologio, stavolta sui 2 minuti a mezzanotte. Questa edizione del bollettino suscita grande curiosità per l'orologio dell'Apocalisse, rendendolo uno dei simboli più noti dell'era atomica. All'inizio era chiamato anche l'orologio di Chicago dal nome del bollettino. Nessuno lo vedeva come un'istituzione nazionale, ma con la fabbricazione della bomba H la situazione divenne più complessa. L'orologio fu riconosciuto come un simbolo nazionale. Rabinovich sposta nuovamente in avanti la lancetta dei minuti solo quando una nuova minaccia si concretizza in un'altra parte del mondo. Il 31 ottobre 1956 l'Egitto viene invaso da Israele, dalla Gran Bretagna e dalla Francia. L'intenzione è di cacciare il leader egiziano, il colonnello Gamal Abdel Nasser, che in luglio ha nazionalizzato il canale di Suez, di proprietà anglo-francese. Il presidente Eisenhower si trova di fronte a un dilemma. Se gli Stati Uniti si schierano con i 3 alleati, Nasser potrebbe chiedere aiuto all'Unione Sovietica. Radio Doc. Proseguiamo con la seconda parte del radiodocumentario dedicato all'apocalisse nucleare durante gli anni della Guerra Fredda. Il 31 ottobre 1956 l'Egitto viene invaso da Israele, dalla Gran Bretagna e dalla Francia. Come scrive sul bollettino Mike Moore, il presidente americano Eisenhower si trova di fronte ad un dilemma. Se gli Stati Uniti si schierano con i 3 alleati, Nasser potrebbe chiedere aiuto all'Unione Sovietica. Il presidente Eisenhower appoggiò le Nazioni Unite e costrinse gli inglesi, i francesi e gli israeliani a ritirarsi. I curatori del bollettino e il consiglio di amministrazione erano stati da sempre favorevoli agli accordi multilaterali per la risoluzione dei conflitti. In risposta all'iniziativa di Eisenhower, Rabinovich sposta indietro le lancette dell'orologio a 7 minuti alla mezzanotte. Nel gennaio 1960 scrive: una nuova spinta coesiva ha fatto il suo ingresso nel gioco delle forze che stanno modellando il pianeta, rendendo il futuro dell'umanità un po' meno buio. Poi, nell'ottobre 1962, lo scontro fra Washington e Mosca per la presenza di missili sovietici a Cuba porta il mondo sull'orlo della guerra atomica. Da un discorso del presidente Kennedy. La politica della nostra nazione sarà di considerare ogni testata nucleare lanciata da Cuba contro una qualsiasi nazione dell'emisfero occidentale come un attacco dell'Unione Sovietica contro gli Stati Uniti, che comporterà un'azione di rappresaglia contro l'Unione Sovietica stessa. Per scongiurare l'invasione americana, il leader sovietico accetta di rimuovere i missili da Cuba. Robert McNamara, ex segretario alla difesa. C'erano 170 testate atomiche sul suolo cubano. Se le nostre forze d'invasione avessero tentato lo sbarco a Cuba, nessuno può togliermi dalla testa la certezza che i russi avrebbero usato le loro armi nucleari tattiche. La crisi dei missili a Cuba, stranamente, non sposta neanche di un minuto l'orologio dell'Apocalisse. Dopo essere stati sull'orlo dell'abisso nucleare, gli Stati Uniti e la Russia prendono in considerazione una soluzione diplomatica, ma l'ondata di ottimismo ha vita breve. Nell'ottobre 1964 è la Cina a far detonare la sua prima bomba atomica. Joseph Cirincione, responsabile Forza di Pace Internazionale. La Cina divenne la quinta nazione ad avere la bomba atomica, insieme a Stati Uniti, Russia, Gran Bretagna e Francia. Si temeva che la situazione sfuggisse a ogni controllo, considerando che allora la Cina sosteneva la proliferazione nucleare. La corsa agli armamenti e il crescente nazionalismo fanno scoppiare alcune guerre. Nel 1968 Eugen Rabinovich teme che la cooperazione internazionale stia cedendo il posto a una condizione di totale anarchia. Scrive un editoriale apocrifo dal titolo «Una nota di amarezza» e decide di spostare in avanti l'orologio dell'Apocalisse a 7 minuti alla mezzanotte. Mentre l'atmosfera in redazione è cupa, gli scienziati cercano comunque di tenere aperte le porte alla speranza. Kennedy lo approntò, Johnson lo terminò e Nixon lo firmò. Parlo del trattato di non proliferazione nucleare. Il trattato del 1969 autorizza le 5 nazioni nuclearizzate a promuovere l'uso pacifico del nucleare in altri paesi. Questi si impegnano a loro volta a non fabbricare o acquistare armi atomiche. L'accordo si è poi esteso a tutte le nazioni, tranne il Pakistan, l'India e Israele. Rabinovich riacquista fiducia grazie al trattato. Nell'edizione dell'aprile 1969 regola l'orologio sui 10 minuti alla mezzanotte. Ma la speranza è presto vanificata da una nuova minaccia nucleare. Sul finire degli anni 60, la corsa agli armamenti fra gli Stati Uniti e la Russia sembra essere fuori controllo. Poi, nel 1969, le due superpotenze trattano una riduzione dei propri arsenali nucleari. Rose Gottmüller, responsabile forza di pace internazionale. Le leadership dei due paesi si erano incontrate più volte durante alcuni vertici di capi di Stato, ma non si erano mai impegnate seriamente per ridurre, eliminare o controllare le armi nucleari. Ma nei tardi anni 60 i sovietici si mostrarono disponibili ad aprire una discussione sull'argomento. 3 anni dopo l'inizio delle trattative per il SALT, i negoziati per la limitazione delle armi strategiche, il presidente Nixon e il segretario generale Brezhnev firmano a Mosca 2 accordi. Uno è il Trattato Antimissili Balistici, o ABM, che limita i missili di difesa. L'altro è l'accordo ad interim che congela il numero di missili balistici ai livelli del 72, ma solo per 5 anni. Nel giugno del 1972, Bernard Feld, membro del consiglio d'amministrazione del Bollettino, scrive che la redazione si dichiara soddisfatta del trattato ABM, ma non altrettanto dell'accordo ad interim. Stephen Schwartz, editore del Bollettino. Fu come mettere un limite alla corsa agli armamenti. Fu un'iniziativa efficace. Non impedì il proliferare di tutte le armi atomiche, ma evitò un riarmo incontrollato. Quello stesso anno si preparano le negoziazioni per il trattato SALT II. Come segno di fiducia, l'orologio viene rimesso indietro. Le lancette segnano 12 minuti alla mezzanotte. Non sono mai state portate così indietro. Il 15 maggio 1973 muore Eugene Rabinovich. La rivista perde la voce editoriale e intellettuale di maggior spicco. Il fisico 53enne Bernard Feld è il nuovo direttore capo. Come ricercatore ha lavorato alla realizzazione delle armi atomiche. Oggi, come scienziato impegnato, sostiene il disarmo nucleare. Nel 1974 la redazione del Bollettino adotta un nuovo metodo per risistemare le lancette. Non sarà più la decisione di un solo uomo, ma il risultato del consenso raggiunto dai membri del Consiglio. A maggio la redazione decide di rimettere l'orologio. L'India fa detonare un dispositivo nucleare. Nel 1974 il nuovo orario è mezzanotte meno 9 minuti, ma la lancetta non si fermerà qui. 5 anni dopo, il 26 dicembre 1979, l'Unione Sovietica invia truppe e carri armati in Afghanistan a sostegno di un governo filorusso. Le relazioni fra Mosca e Washington precipitano. Il presidente Jimmy Carter chiede al Senato di rimandare l'applicazione del SALT II, l'accordo sugli armamenti che lui stesso ha firmato con Brezhnev. Bernard Feld fa il punto sulla situazione di instabilità mondiale nell'edizione del Bollettino del gennaio 1980. Il SALT II è stato di nuovo bloccato. Il fanatismo religioso dilaga nel Medio Oriente. Milioni di persone sono assassinate dai Khmer Rossi in Cambogia. La lancetta dell'orologio viene riportata a mezzanotte meno 7 minuti. Il nuovo decennio è appena iniziato e la guerra nucleare in Europa sembra possibile. L'Unione Sovietica dispiega una nuova generazione di armi strategiche. Joseph Cirincione, responsabile forza di pace internazionale. Si chiamavano SS-20 ed erano armi a media gittata. Questo termine significava che potevano essere lanciate dal territorio russo e colpire tutte le maggiori capitali europee. Gli Stati Uniti mettono in allerta tutte le basi missilistiche nei paesi europei della NATO. Chiamavamo i nostri missili Pershing o Cruise, se lanciati da terra. Erano questi gli euromissili che inauguravano una nuova fase di corsa agli armamenti. Se ci fosse stata la guerra nucleare, stavolta sarebbe stata l'Europa a essere ridotta in cenere, non gli Stati Uniti o l'Unione Sovietica. Nel gennaio 1981 Bernard Feld scrive: entrambe le parti si illudono che la guerra atomica possa essere circoscritta o vinta, e nel 1980 hanno dichiarato che un conflitto nucleare era concepibile. L'aggettivo concepibile determina un cambiamento nell'orario. 4 minuti a mezzanotte. La corsa agli armamenti iniziata dal presidente Carter conosce un'accelerazione con Ronald Reagan. Reagan fonda la propria campagna elettorale sulla debolezza militare degli Stati Uniti rispetto alla Russia. Per Reagan, il trattato SALT II è stato un errore fatale. L'unico modo di porre fine alla guerra fredda è vincerla, distruggendo l'impero del male sovietico. Reagan sostiene che gli Stati Uniti debbano costruire un impenetrabile scudo spaziale. Nel 1983 avvia un programma di ricerca e sviluppo, l'Iniziativa di Difesa Strategica, per realizzare il sistema missilistico di difesa perfetto. I critici del presidente chiamano il suo programma Guerre Stellari, come il film. Lamentano il fatto che, se funzionerà, violerà il trattato antimissili balistici, incoraggerà la militarizzazione dello spazio e darà nuovo impulso alla corsa agli armamenti nucleari. Gli editori del bollettino rispondono nel gennaio del 1984. L'orologio viene spostato in avanti sui 3 minuti alla mezzanotte. È il punto più vicino all'ora zero dai tempi della detonazione della bomba a idrogeno russa nel 1953. Poi le due superpotenze fanno qualcosa che agli occhi degli editori della rivista ha del miracoloso. L'Iniziativa di Difesa Strategica di Reagan minaccia i rapporti con i russi, ma il consiglio d'amministrazione del bollettino intravede anche segnali di speranza. Dopo anni di gelo diplomatico, nel 1987 il presidente Reagan e il segretario generale Gorbaciov trovano un accordo per il disarmo. Il trattato sulle forze nucleari a medio raggio elimina un'intera classe di armi atomiche non solo dall'Europa, ma anche dagli arsenali russi e americani. Il trattato sulle armi a medio raggio è un fatto straordinario che sorprende molti, compresi i curatori del bollettino. Prima di chiudere, vi segnaliamo che la versione integrale del radiodocumentario che avete appena ascoltato andrà in onda su History Channel il 20 aprile a 12:30, col titolo L'orologio dell'Apocalisse. Un ringraziamento in redazione a Daniele Casagrande. Radio Doc vi dà appuntamento a domenica prossima. Buonanotte.